possibilità. Sono molto volentieri. Vabbè, non c'è problema, tutto a posto. Chi prova a chiedere la clave? Sicuramente ne sta cercando uno. No, te l'ho fatto avere io quello, figurati, non ce ne andiamo. Adesso devo passare a qualcosa di più. Si inizia con quelli e poi si passa a qualcosa di più concreto. Ed è giusto che sia così. No, io sono completo, Antonio. Ui. Però io devo fare un'operazione, se ci riesco, a Natale, perché voglio andare in fiera. Stiamo già organizzando una bella graffetta, andiamo a Ferrera dei Mattori a Genova. Sia il 21, intervallo tra il 20 e il 21, dal 21 al 23 dicembre, o no, dal 18 al 21 mi pare che sia una cosa del genere, e voglio fare un'operazione, ho già impostato quello che volevo fare, io verso questo, il 4.30, tutta la linea completa, che mi sono già organizzato, e prendo una HF da 200 watt, serie, e quando volevo entrare a fare due chiacchiere con voi uso il baracchino vero e proprio, così giusto per fare due chiacchiere. Mi serve una radio un po' più completa, un altro digitale, qualcosa del genere, altrimenti volentieri l'avrei anche preso, perché quella è una radio che va sempre di lusso. Sia della 27 che giustamente al 3.30, è bello scambiare, fare delle prove, poi alla fine cercare, diciamo, l'apparato che più ti ci avvicina alla fine, e poi giustamente te lo tiri in cuore naturale durante una cosa e l'altra, ma anche è bello, vedi, scambiare, già è anche quello lì, la passione c'è sempre, anche in quel caso lì, scambiarsi le cose giustamente, tenendo il più possibile funzionante, c'è bello anche quello, perché no? Sono arrivato a casa, ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Antonello, ciao chi è entrato, non mi ricordo, vabbè dai, sono arrivato a casa, ciao a tutti, tolgo tutto e salgo su. Oh, ciao Marco, ma ci vediamo, buon dolore da questa, ciao Marco, ciao, le prossime. E Antonello, ne ho venduto tra il 2012 e il 2013, siamo a ottobre, ne ho venduto 4 io di radio, 2 440 e 240, quindi non ne avevo troppe, ho preso un IC7004 che mi consente di fare attività a livello digitale, insomma, di ultima serie, mi sono tenuto questo 430 che è simile al 440, un ricevitore un po' più assestato, ha dei filtri diversi, insomma è una radio che consente di fare qualcosa in più a livello di ricevitore e basta. Però anche questa a dicembre parte tutta la linea completa, 430, T250, IS50, Colonia, MC60, già contattato dove l'avevo portare, quanto non l'ho valutata, e mi prendo un HF da 200 watt, un Mark 5, insomma qualcosa che mi consenta di fare attività amatoriale un po' meglio di come la sto facendo, con più potenza, tutto qua, con più, insomma, ricezione, radio di ultima generazione, beh, questo oramai, questo lo uso solo in 27, non lo uso manco in 10, quindi in HF lo uso volte 50 al 7004, perciò e poi tutti gli altri. Dove sei Massimiliano? Tu sei una bomba, sì, dove sei? Sono a casa, è sganciato pure, sto andando solo con il VAT, 3 VAT e mezzo di baracchino. Sono con gli occhiali perché stiamo scrivendo. Sì, 9, quasi 25, sganciato, no, senza occhiali ti ho dato il segnale balordo, non vedo più una cicca manca da segnare. Aspetta, se sono sganciato, claro, non so cosa dirti. Allucinante, sì, 9,25 è il picco massimo di modulazione, 9,20 picco 9,25. Prova a agganciare a vedere che ci sono i picciti. Oh, guarda, a vedere, così è agganciato, guarda un po'. Sono proprio più geco, perdonami. Allora, agganciato fai picco 9,25 a picco di 9,35. Sì, sì, allora, Antonio, a te è cambiato qualcosa? Antonio. Sta seguendo qualche bullone. 80 che fischiano qui e là, no? E lì dipende sempre dal piano di massa, dove sta lavorando il microfono. Perché io voglio sapere come sono organizzato, ce li ho tutti in fila, attaccati alla radio, non hanno mai fischiato, ma c'è un lavoro qua allucinante, cioè tutte le masse collegate alla barra del rame, insomma, bisogna farlo bene la cosa. Se no, se lo metti sopra la radio è chiaro che ti fischia. Ma io ho visto anche come ce l'hai tu, in mezzo alla radio no, non fischia il tuo, vuol dire che il piano di massa è buono. Allora io ce l'ho sopra quel rialzo, la radio è sotto adesso da solo, che stamattina sono andato a restituire quella cosa là, ti ho portato a Torres e mi è rimasto quello grigio che adesso è da solo sotto e la radio ce l'ho tutta sopra, ma a me non mi ha mai fischiato anche tenendolo a fianco. Il microfono stai dicendo? Vabbè, sono tenendo va bene così, va bene così, non c'è problema. Tanto se la radio la messa in vendita è giusto che hai fatto l'operazione. No, io non no, vendere qua no, perché questo è un 430, ho valutato bene e quindi mi hanno dato un sacco di soldi, allora lo mando sul continente, adesso a dicembre. Non lo tengo sino a dicembre, perché quando vado in fiera lo metto dentro i controlli. Mi hanno dato 500 euro più 250 per la T250 che è andato così qua. Insomma, in tutto mi hanno dato quasi 900 euro. Ne aggiungo a 3.000 e porto giù una bellissima radio di quelle all'Ande Caraibi. E fai bene, tanto se ti servono, tu fai quell'attività radioamatoriale, ti serve, quindi è meglio fare così. No, non hai dato il microfono quello grigio, l'85, no? Quell'altro nero, quello con l'equalizzatore, dai, già mi ha capito. Ah, io ho capito. Ah, sì, eccolo là, sì. E tanto, non so, non sapremo dove agganciarlo, e quindi l'ho restituito, Adesso è rimasto questo qua, qualche altra cosettina, tanto è inutile avere 2000 radio, tanto ne usi sempre una alla volta. Questo lo uso qua e quell'altro, posso fare ascolto un po' da altre parti, là. Infatti qua c'è agganciata la comunicazione dell'antenna, lo uso solo qua in 3x9, l'850, il 780 e il 7004 che lo uso in HF. Davvero proprio materiale, già lo sai come sono organizzato, perciò sono io diverse antenne, quindi posso tenere accese tutte e andare in trasmissione. Andare. Sì, ma si migliaia, questo io l'ho portato 600 euro 430, ha un centinaio di euro in più del 440, perché magari è un po' particolare, però a me ne ha dato 500 euro perché è nuova e poi lo conosco, ma sto prendendo un'altra radio, quindi. E poi il valore della T250, l'aggregatore di tutta la linea, un radioamatore di Genova, mettono la portici in fiera e ci vediamo direttamente in fiera a dicembre, e quindi è già praticamente venduto. E vediamo, lui ha detto che mi fa avere qualcosa di buono, intorno ai 2000 euro, 1800, 1900, insomma, io mi butto giù lisci, poi con quello che mi dà lui già porto giù sicuramente qualcosa di buono, di bello, e basta. Che ore sono? 9:10, cazzo, sono seduto qua in stanza da stamattina alle 10, ha già fatto 26, 30, 32 collegamenti tra 10 metri e 12 metri. 32 collegamenti, sono passato da 180 e qualcosa quasi a 200, a 200 country. Ehi, va bene, qua. No, io ti lascio allora, Claudia, che anche io, noi stiamo ordinando una pizza e adesso è arrivata gente, là. Ci sentiamo, Claudia, buona serata, buon divertimento ancora, se stai in radio, e saluto Antonello, a Marco e tutti quelli che sono in ascolto, là. Chiudo e buonasera. Ciao Massimiliano, come al solito saluti cordiali a casa, a tutti, compresa anche a Gaia, e ci aggiorniamo, domani lavoro, domani no, adesso basta, adesso mi guardo un po' di TV, poi se c'è qualcosa magari più tardi, altrimenti si lavora. Ok, poi da lunedì vediamo cosa fa. Dai, ci aggiorniamo. Ciao Massimiliano, buona serata, grazie alle due chiacchiere. Saluto anche io a tutti, buona serata, QRT. Ciao, ciao Claudio, come 28? 28 è tutto, dal 28 e 4 al 28 e 8. Andate, dai. Ci sentiamo, ciao, buonasera, un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Saluto anch'io Cla, che vado a mangiare che la pappa è pronta. Allora, buon proseguimento di serata. Ciao Antonio, anche a te, dai. Se coincidi a dopo, se ne ha voglia, altrimenti ritenetevi tutti salutati, a voi e ai rispettivi colleghi familiari. Ciao, a presto Antonio, anch'io vado a pappare. Ciao Cla, appetito. Altri due. Hola. Ciucucciu. Non lo so, bisogna che metta il vattimetro, perché qui c'è un ago del coso che non mi funziona, però già lo so io cos'è, c'era sempre un interruttore sull'MPG che non mi funziona il veicolo, il batter non so di questo, come una cassata, il resto va, perché accorre un'altra lancetta, devo guardarlo, che c'è lo strumentino, lo so, ma quello già lo ordino nel caso, perché era fermo da tempo che l'accordatore. E ti stavo dicendo lui le casse, quindi le avevo già fatto quel passo lì da quei tipi, però boh, adesso vediamo cosa fare, perché tanto ormai la stagione è finita, perché non ce ne sono più, perché quando diciamo sono a posto pompano, e poi lui lì ci aggiunge le GBL, le altre che c'ha, che le aveva fatte fino a Sanna, di altri 1000 rotti fatte, già tocca la canosola, però è un periodo che non è disinteressato proprio da sua, non lo so, questo ragazzo, riprendimi. Pino Sanna, ma è perché è ancora io, ecco. E su, ti aiuto a dire che la lui della Pino Sanna, cassiato, Io no, quelle casse, stiamo parlando dei primi anni 80, e cioè io quelle sono quelle quadrate, capito, non quelle che faceva per i cantatori, quelle ce le avevo dato per l'armonicista, poi le aveva date a me, io avevo comprato perché sono passivi, un finale li utilizzo come subwoofer e vanno alla grande, cioè anche i medio alti, e lui le somma tutte quante assieme, poi ce le somma, sono io che ti attuo tutto. Però ogni tanto questo scasso mi hanno rotto sempre le scatole, infatti molto mi sembra che le riparo, le versiamo, detto, boh, non lo so, capito, bisogna vedere, infatti non le ho riparate ancora, c'è troppo, mi chiamavo da coso, riporta le membrane, quei cosi che c'ha con 50 euro, non lo sono a posto, ma tu io se si ritorno la roba, voglio capire proprio il coso perché si la prevano, ma se mi dici che questo della PLM mi eliminano questa roba che non si lo può più, le porto lì. Già le mie erano sempre rotte. Poi un giorno Francesco me l'aveva venduto, Francesco Costa. La prova, io non sono in cerca né di assistenza, né di qua e né di là. Tu me le hai vendute, a te ho dato i soldi e tu me le devi riparare. Va bene, non sono in cerca di niente io. Allora si è messo in internet, ha scaricato il progetto, ha rivisto tutto il progetto di quelle casse, mi ha detto, Nino, vai da PLM, che loro te le modificano, io non posso toccarle, però gli ho già detto cosa deve fare. Da Giannie, Gianni, dal giorno non si sono più rotte. Allora, no, anche io le ho comprate lì. Anche io le ho comprate da cose elettroniche, da Francesco che lo conosco una vita, la quando lavorava con Mario Nottari, con l'ingegner Meloni. Però poi andavo, ogni tanto me lo sa questa roba, meno male che lui c'ha l'altro impianto, la serata, perché è molto pignolo, lui suona per suonare, mi suona in diretta, suona. C'è solo quello che si chiama della fare, la fisarmonica, pensa che non c'ha mai, c'ha l'impianto senza fili, c'ha con questi microfoni della KG, ce ne scende dal palco. E ho fatto il pignolo, guarda, si trova il pelo nell'uovo, infatti non mi ha detto nulla, le ha guardate ieri in garage, come a dire, ma non le hai ancora riparate, ma hai capito, e quindi noi se abbiamo il furgone le carichiamo e le porto lì e gli spiego, tanto sono precisi alle mie, sono le DB500, confermi? Quelle con i due picconi, eccetera, dai. Io ne avevo quattro addirittura, ne avevo già. Già le conosco. Ce le ho due, ce le ho in macchina a me. Le avevo a cosa oggi, a Laconi. Ma tu dimmi una curiosità, ma se tu interpagate, fallo liscio oppure ballisardi fa? Allora, il grande suona liscio, fa liscio il gestista classico, lui ha fatto un conservatorio anche con pianoforte, però sempre da piccolino l'ho messo sulla fisarmonica dall'età di 6 anni e ha vinto anche un campionato in continente. E lui è dall'età di 6 anni che suona la fisarmonica, cioè le migliori fisarmoniche sono in commercio. Capito, suona più piccolo, ha imparato l'organetto alla sarda. Buono anche quello, già ce ne trovano serate e feste. Lui, magari lo conosco meno, non è che non ce l'ho presente. Il tesinara da a San Benato, già. Carta si chiama, Carta, Ottavio Carta. Guarda, c'era sulla Maddalena TV, avevano fatto il Fisaraduro quest'anno e lui è andato a accompagnare il fratello, ogni anno suonava, lui quando va lì, e è andato a accompagnare il fratello, ce l'ho anche io ogni anno, e quest'anno così l'ho fatto a sopra, d'accordo, ma con fisarmonica, avevo pigliato una fisarmonica mia elettronica, così però ce l'avevamo nel cofano, poi tutti gli altri anche l'hanno convinto a suonare, si mette a suonare, si mette, i capo e i dritti le sono inventate alla gente che c'era, e poi hanno fatto il coro di questo Fisaraduro, è venuto tutto il protagonista sognato da tutti gli altri Fisaraduri, ti diamo per lui Ottavio sicuramente. Probabilmente sì, dai, ma non l'ho presente già. Oh, accidente, stai arrivando a cannone qua, aspetta, io sono già dove dove c'è il ristorante da Danilo, mi pare, sono in quella salita, sto arrivando al semaforo, stai arrivando una cannonata, ragazzi, e sul microfono pure è buono, mi si intende fino a sacando con Rasalino, come ti devo arrivare già. Qui sei Santiago 7,5 e non so cosa c'è sotto, ma anche tu la radio, diciamo, come sarebbe la però si sente, c'è il QRM perché sei in movimento, però va benissimo Oliva, hai capito? No, il microfono è quello dell'apparato, l'MC60 dell'apparato, hai capito? Non è potrei attaccare anche il cane, ma io ho rispetto, hai capito, questo tanto di cappello. E guarda, siamo nel 4,40, l'abbiamo dato via a uno di Iglesias, capito, poi quello così, ho comprato questo, stavo preso la bocciata, cioè 200 euro di acqua dell'acconto di questo, perché lui voleva dare questo 4,40 a Villasson, poi questo è perché lo paga poco a poco, se no sta andando via questo perché mi ero invadito di una cosa che ho visto su internet, ma questo adesso non si muove più, lo lascio qui, di solito sui baracchini, ma ogni tanto mi serve per fare un po' di ascolto, e mi piace anche a me, no, lo così mi... perché lo vedo, poi ne compro altri, capito, però no, questo non l'avevo sperimentato ancora, perché l'ho usato poche volte, allora adesso me lo lascio, non lo più, ok, comunque hai capito lì, bisogna che ci vada quel negozio, quel nuovo laboratorio, e così vediamo, no, perché hai capito, quando sta suonando lui è molto... è preciso, deve funzionare l'impianto a regola d'arte. Ok, ti rimetto il cambio e dimmi se ancora mi ascolti, immagino che hai passato il video di Platamona. Sì, arrivando il bisogno, sul rifornitore sa esso, so. Ci sto arrivando Castelsardo, solo su Platamona. Oh, io sto arrivando a Cannone già, a Cannone stai arrivando qua. Non ho, da quando ti ho sentito sotto casa tua, non ha cambiato niente, deve essere un apparato molto buono. Cos'è un Kenwood, tu hai detto che è? Beh sì, capito. Sì, io l'ho comprato così perché queste cose mi piace averla così, non è che proprio ci tengo, anzi mi gridano forse molto la parola, perché non usi? Perché mi piacciono altri baracchini a 23 canali, non a 40. Hai capito? No, ma giusto per collezionare, non mi piace, perché se voglio, hai capito, potrei essere, come mi dicono, adesso signor Gianni può essere di più, vabbè, ma io sto bene così, già ne oro può essere di più, però non mi interessa più di tanto, quando parlo con voi che mi sentite, però ogni tanto convuto agli altri, perché sono molto affezionato ai vecchi apparati. Hai capito, ma anche tu arrivi bene, non so che apparecchio stai usando, mica è distante, mi deve essere in macchina che stia arrivando bene, non so che cosa stai usando tu. Lafayette, l'MS200, e c'ho sotto una cosina, dai, non eclatante, però un centinaio li pompa anche lui, li pompa, ascolta già, stai, ogni tanto adesso stai gracinando. Perché io ho il vizio di parlare troppo attaccato al microfono, è un vizio che me lo devo usare. E quindi succedono queste cose. E niente, immagino, no, hanno bisogno di avvicinare gli apparati, ma ovviamente però devo trovare il modo, hai capito, di essere, perché non so se l'avevo su un tavolino lì, e allora innescava, ecco, ce l'ho in mano direttamente il microfono, hai capito, questo pesantino per questa roba. E così, adesso immagino che sta funzionando bene, confermi? No, sta gracinando anche adesso. E cosa può essere successo? Cosa può essere successo? Ok. Aspetta, ora. Guarda adesso, forse va bene. È un po' meglio, dai. Un po' c'è ancora, Però un po' meglio. Perché è sensibile? No, è sensibilissimo. Devo tenere proprio distante, stavo come tre. Un metro lontano, bisogna fare un po' per fare la se c'è un po', se c'è il box, cosa fa verso di noi. Ok, adesso io ti accomodo sempre bene lì, ti accomodo sempre bene. Ma guarda, te l'ho detto che cosa c'ho, no? Tanto li conosci, tu poi sei un appassionato di Lafayette, caspita. L'LMS 200, e sotto c'è il fornellino, vai. Ok, lo conosco, perché ho tutti i cataloghi, non c'ho quello del 2013, mi sembra, non ce l'ho. Mi darà di che ho parlato con l'uomo, intanto c'erano tutti i cataloghi della Marcosi, però non lo so, lo devo buscare. Forse non ce l'ho quello del 2013, ho buscato anche loro. Insomma, andavo con uno alla DVC, mi dirà, ma già me ne scarico da internet, ma è bello, io mi piace toccarli con mano, c'ho tutti questi cataloghi degli anni 70, di cui elettronica, allora voglio vederci tutti in garage, non sta fare. Ogni tanto, ci vado, però ho trovato un foro che si chiama Introni in Internet, eccetera, sono tutti i cicli elettronici lì, quindi non so, manco più facendo tempo a prendere i miei. Ok, no, guarda, guarda, anche io quando ho montato il baracchino in macchina, avevo anche l'aiutino, allora ci vuole. Ho fatto 123 e l'aiutino che ho un dettaglio da 100 e la sigma, poi ho cambiato il baracchino che avevo il coso, il Focalici 2024 sempre e col microfono per suo avevamo smarrito e gli abbiamo adattato un microfono della saletta che sembrava un vasone elettrico lì e mi ascoltavano dappertutto. Qualcuno vorrebbe entrare, stavo parlando sempre io, ciao!